La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 13 febbraio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Puntata un po' anomala questa. Ci occuperemo di scienza e di tecnologia a favore della disabilità ed in particolare di un sistema per leggere, suonare e trascrivere musica in linguaggio Braille. Ne parleremo di questo argomento col dottor Antonio Quatraro, tiflologo, e poi mi spiegherà che cosa vuol dire, coordinatore del progetto Contrapuntus. Buongiorno dottor Quatraro. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Domanda rapida e secca da rispondere nelle 100 parole iniziali, tanto poi ci torneremo. Che cos'è Play 2? Le parole le contate voi, io non riesco a contarle. Play 2 è un progetto che mira a far sì che un non vedente acceda alla musica scritta per tutti, attraverso le tecnologie esistenti, quindi attraverso il computer, la riga Braille, braillabile, e attraverso il suono che emette, quindi attraverso l'uscita MIDI, e permette anche di produrre spartiti in scrittura comune da parte di un non vedente che usa invece la sua notazione Braille, quindi una specie di convertitore. Perfetto, dottor Quatraro, ci fermiamo per un attimo qui, andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torneremo in studio e poi cominceremo a parlare della storia e della struttura del linguaggio Braille e del suo confronto col linguaggio nero, cioè il linguaggio che utilizzano i vedenti. You didn't stay, and I know why. You ran away, and I know why. You didn't stay, why? I'm lost in a memory, and I'm looking back on a beautiful story that went out of track. You say I was lucky, I know that I'm not, 'cause when I turned 50, I know it's the rock. And I know why you ran away, and I know why. You didn't stay, and I know why. You ran away, and I know why. You didn't say why. Just there's a feeling in my head, and it won't set me free. And this feeling in my head is my own company. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, siamo ancora in collegamento col dottor Quatraro del progetto Contrapuntus per parlare di linguaggio Braille e di nuovi sistemi per leggere e scrivere di musica appunto in Braille. Partiamo dall'inizio, dottor Quatraro, quando nacque il Braille e per mano di chi? Fino al 1790 i ciechi erano confinati alla mendicità, cioè chiedevano l'elemosina, oppure davano spettacolo, magari si mettevano a rincorrere un maialino dentro un recinto per suscitare il riso della gente, perché quando uno ha fame fa tutto quello che può per mangiare, perché non potevano accedere anche alla cultura, nonostante la stampa fosse inventata diciamo alla fine del 1400, però era una stampa che potevano leggere solo quelli che avevano gli occhi. Grazie ai valori della rivoluzione francese, quindi di libertà, di eguaglianza e soprattutto di fraternità, come la chiamavano allora ci si occupò anche dei ciechi, e un filantropo che si chiamava Valentin Aouy, vedendo che questi ciechi, quando avevano piccoli soldi, insomma degli spiccioli, fate conto un centesimo, stavano zitti, ma quando gli davano la moneta da 2 euro cominciavano a sbracciarsi, a dire grazie, Dio ti benedica. Valentina dice: ma questi come fanno a sapere quello che gli ho dato? E osservando ha visto che questi ciechi riconoscevano al tatto la moneta che gli davano. Allora ha pensato, ma se possono riconoscere la moneta, potranno riconoscere anche l'alfabeto nostro dei vedenti, purché sia messo in alto rilievo. E così fece, e creò il primo alfabeto in alto rilievo, in tutto e per tutto simile al vostro, che poteva essere toccato dai ciechi. In quel tempo nacque Luigi Braille, che è l'inventore del nostro metodo, e purtroppo venne accecato perché lui giocava con una lesina, che è un aggeggio, uno strumento per i maniscalchi, per i sellai, se lo infilò in un occhio all'età di 3 anni e poi perse anche l'altro, quindi divenne cieco. La famiglia lo iscrisse alla scuola di Valentinois a Parigi. Lui era nato a 50-60 km di distanza, è stato aiutato un po' dalla famiglia, un po' dalla parrocchia, e andò all'istituto e cominciò a leggere l'alfabeto di Yahweh, che era con le lettere in rilievo come le vostre, ma cominciò a studiare un altro sistema fatto invece soltanto su puntini. Poi finì nell'alfabeto Braille, che è basato sempre su 2 file di puntini, ma di 3 soli puntini in alto rilievo, perché il puntino può essere letto dal polpastrello, e la novità è questa, cioè il cieco legge solo con il polpastrello delle dita, quindi con una parte piccolissima di superficie, e dentro questa superficie possono entrare soltanto 6 puntini. Quindi diciamo che il metodo Braille traduce in simboli e quindi in punti definiti l'alfabeto relativo a qualsiasi lingua conosciuta. Chiaramente, quando uno ha trovato il modo di codificare un alfabeto, ha trovato il modo di codificarli tutti, perché Luigi Braille è nato in Francia, ma che sia alfabeto francese, italiano, greco, loro scrivono diverso, arabo, scrivono ancora diverso, russo, e persino l'alfabeto cinese e giapponese, che hanno gli ideogrammi, cioè quei disegnini, può essere rappresentato con i puntini Braille. Chiaramente, se uno prende un libro intitolato L'Odissea di Omero, testo greco, sa che dalla pagina 2 in poi quelle sono tutte lettere greche, ma insomma alfa è uguale alla greco, beta, alfa è uguale alla latino, beta è uguale al b greco, quindi ha poca importanza se l'alfabeto è greco o latino, perché in Braille si scrive tutto allo stesso modo, quindi chi legge sa. E Luigi Braille fece anche di più. A quel tempo i ciechi, avevo detto che chiedevano l'elemosina, si divertivano con i maialini a rincorrere i maialini, ma facevano anche altro, suonavano laddove potevano, quindi per strada, nelle chiese, dove capitava, magari buscavano qualcosa. E a quel tempo già c'erano degli organisti, delle persone che suonavano l'organo in chiesa. Luigi Braille diventò anche lui in parola musica, e il suo metodo Braille venne studiato anche per trascrivere le note, che è quello che ci interessa. Quindi, dottor Quadraro, la interrompo un attimo, perché fino ad ora abbiamo parlato ovviamente di storia, e più si parla di storia più si capiscono le dinamiche del perché alcune cose siano state fatte. Senta, i matematici amano ripetere che il linguaggio dei numeri è l'unico linguaggio universale. In realtà, dalle sue parole, abbiamo capito che anche il linguaggio Braille è un linguaggio universale, perché, diciamo, può essere letto da ognuno. Le specifiche, però, quali sono le specifiche del Braille e se sono cambiate nel corso del tempo? Diciamo questo, la matematica allora non bel dire, ma anche il linguaggio dei sentimenti, il linguaggio della musica è universale, comunque non è che ce l'ho con i matematici. Il Braille è nato nel 1825 in Francia ed è stato adattato alla lingua francese, via via che poi l'hanno adattato altre lingue, chiaramente l'hanno dovuto adattare, perché nella lingua russa per esempio ci sono suoni che non ci sono, ci sono lettere che non ci sono nella lingua francese. E così in altre lingue come il tedesco, l'inglese, lo spagnolo, lo stesso italiano. Il Braille si è un po' evoluto in base alle esigenze che sono nate via via. Per esempio nell'Ottocento i ragazzi non studiavano l'algebra, non studiavano la statistica, ora abbiamo anche la segnografia per l'algebra, per la statistica e per l'informatica. Nell'Ottocento non avevano i computer, ora abbiamo anche i computer, e i computer producono, oltre che la voce, possono produrre anche il carattere, il metodo, il linguaggio Braille. Quindi abbiamo un codice particolare che serve a codificare tutti i segni del computer, e per questo codice, invece dei 6 punti caratteristici con i quali è partito Luigi Braille, ce ne sono 8, perché con 8 punti si possono rappresentare tutti i 256 segni del codice ASCII, che è un codice di interscambio delle informazioni usato in informatica. Questo consente ai non vedenti di fare anche lavori di programmazione ad alto livello e di seguire quello che viene scritto nello schermo segno per segno. Senta, vorrei che fosse un attimo più preciso. In Cina, per esempio, che hanno gli ideogrammi, il Braille com'è? Allora, noi parliamo in generale di codice o metodo Braille o alfabeto Braille. Le lingue che hanno il suono A scrivono la A nello stesso modo, quindi i suoni che sono comuni alle lingue A, B, C, D, F, eccetera, si scrivono nello stesso modo in tutto il mondo. Ci sono alcuni suoni che non esistono nella lingua francese, per esempio il suono russo SCH, per esempio, che è un suono composto, oppure altri suoni, la N con tilde spagnola, lì ci sono segni particolari, quindi c'è una base comune di segni che sono le 26 lettere dell'alfabeto più i segni di punteggiatura e un certo numero di segni che vengono adattati alle singole lingue. Per i cinesi fanno come fanno, in cinese c'è la scrittura ideografica, ma esiste anche una scrittura che si chiama Pinyin, che è una scrittura alfabetica adattata per chi conosce l'alfabeto latino, e quindi i suoni che loro scrivono con gli ideogrammi vengono poi trascodificati in suoni scritti con le nostre lettere. Questo funziona per la Cina, per il Giappone e per le altre lingue ideografiche. Perfetto, dottor Quatraro, ci lasciamo per un attimo qui, andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale e al nostro ritorno saremo in compagnia con Gianni Bertoni di Arca Progetti per parlare con lui di software e partiture in Braille e magari ascoltare anche un po' di musica scritta in Braille. A dopo! First line, which has no meaning but it is a rhyme. I'm sorry for this whole idea. I'm sorry for being here or there, but hey, I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. Anyway. I'm sorry for the greenhouse effect. I'm sorry for the Japs' whale contract. I'm sorry for each killed elephant. I'm sorry for the kick and Chinese bombers. Hey, I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. Anyway. I'm sorry for each terrorist. Such a fool. I'm sorry that I've been so cruel. E come promesso siamo di nuovo tornati in studio, ma questa volta in compagnia del dottor Gianni Bertoni, presidente di Arca Progetti e creatore del software Play 2 per la lettura e la scrittura della musica in Braille. Buongiorno dottor Bertoni. Buongiorno a voi. Senta, prima di cominciare, come funziona nell'essenza il software per leggere e produrre musica direttamente in Braille? Sì, ecco, prima di dire come funziona vorrei fare una premessa. La scrittura musicale Braille, a differenza della scrittura musicale stampata, descrive la musica solo in senso orizzontale. Infatti, mentre i vedenti hanno una visione bidimensionale dello spartito e nello stesso tempo leggono la melodia orizzontale e l'armonia verticale, i ciechi, attraverso il tatto, leggono la melodia e l'armonia in modo orizzontale, un elemento dopo l'altro. Tutto ciò rende la comprensione musicale molto più complessa e richiede tempi più lunghi rispetto alla rappresentazione che ha il vedente, ecco. Per questa ragione abbiamo ideato questo software che ha come obiettivo appunto di facilitare la lettura. Il non vedente carica il suo brano musicale e attraverso una serie di tools ha la possibilità di selezionare una voce alla volta e quindi di leggere e ascoltare una voce sola o di seguire solo l'armonia, di cambiare la velocità del brano e via dicendo, ecco, tutti strumenti che hanno come obiettivo la facilitazione, che questo, ecco, che la scrittura Braille necessita, perché è molto molto molto complessa. Allora, facciamo per un attimo finta che io sia a digiuno di tutto questo e cerchiamo di spiegare per un attimo come funziona tutto. Mi connetto a un sito, e quale sito è? Scarico un programma, e quale programma è? Scarico i brani in BMML e da dove? E come posso far mangiare i brani al software? Il sito si chiama www.punctus.org. Qui l'utente ha la possibilità di scaricare il nostro Easy Reader, è un software gratuito, pochi passaggi lo può installare. Insieme al software ci sono anche degli script di JAWS. Il JAWS è un reader che descrive vocalmente tutto ciò che appare a video. Sempre nello stesso sito di Punctus l'utente può andare nella nostra library, dove attualmente sono disponibili circa 500 titoli, realmente autori classici, insomma, andiamo da Bach, arriviamo fino a Gershwin, e lì appunto può scaricare i brani che crede e poi una volta scaricati li può ricaricare con questo software, l'Easy Reader, che precedentemente ha installato. Dottor Bertoni, visto che lei è stato uno di quelli che ha scritto materialmente questo programma, nella stesura di questo programma quali sono state le parti più complicate da scrivere e quindi da realizzare? Beh, molteplici. Direi la parte principale è quella di aver creato un sistema in grado di riconoscere i singoli caratteri Braille e assegnare a ciascun carattere Braille il significato musicale, cioè la lettera D in un determinato contesto indica la nota Do, mentre in un altro contesto può indicare l'indicazione di tempo. Ecco, il software che appunto analizza e identifica i vari simboli è stata la parte più difficile. Comunque il software è stato sviluppato da una serie di partner del progetto Punctus, partner che si trovano in Spagna, che si trovano in Francia, a Londra, insomma è un progetto europeo. Il software poi immagino andrà migliorato, incrementato, tenendo conto dei consigli degli utenti e utilizzatori, che poi sono coloro che fanno veramente il testing finale. No, io ritengo che un software debba sempre e continuamente evolversi, altrimenti non ha ragione di nascere, di essere scritto. Un software deve sempre aggiornarsi e deve sempre ascoltare le esigenze degli utenti. Il nostro software è nato appunto da contatti diretti sempre con i nostri musicisti che lo testavano e giornalmente ci comunicavano i problemi individuati, soluzioni, suggerimenti, ecco, una continua battaglia, diciamo, in senso positivo, ma una continua discussione tra i programmatori, tra i musicisti che hanno esigenze, eccetera. E quindi il nostro obiettivo è continuare. Attualmente, dicevo, la libreria ha 500 titoli, ma ci sono persone che in questo momento stanno lavorando per incrementarla e contiamo nel giro di un anno di poter raggiungere una massa critica, insomma, in modo che si possa dire che veramente il Punctus ha una libreria di primo ordine. Ecco. Allora, intanto la saluto e le auguro un buon lavoro. Fra qualche istante, per voi ascoltatori, andremo a sentire un piccolo pezzo musicale letto e mangiato direttamente dal Braille Music Reader. Grazie ancora, dottor Bertoni. Grazie a voi, è stato un piacere. Se vi può interessare, questo pezzo che state ascoltando è stato realizzato da Marco Olivieri, che è un compositore che soprattutto ci ha autorizzato a mandare questo pezzo in trasmissione, e quindi lo ringraziamo. Allora, torniamo in studio e questa volta di nuovo col dottor Quadraro per andare verso la parte conclusiva della trasmissione. Abbiamo ascoltato nel corso di tutta la puntata un po' la storia, i software, gli archivi musicali, tutto perfetto, ma come fa la musica scritta in Braille a uscire dal mondo dei non vedenti ed entrare nella scrittura in nero e quindi entrare nel mondo dei vedenti? Abbiamo due facce della medaglia. Uno è come il non vedente può fare ad accedere alla musica che già è disponibile in internet. E la seconda faccia è come fa uno che sa la musica e la sa scrivere in Braille a poterla stampare per i vedenti, perché ci sono centinaia di musicisti non vedenti i quali hanno o degli amici o degli allievi o studiano al conservatorio, e quando gli dicono fammi questo esercizio lui se lo scrive in Braille e poi deve cercare qualcuno che glielo copia in scrittura comune. Invece ora è possibile accedere a spartiti musicali in maniera molto più facile e produrli. Il primo problema riguarda la pagina musicale Braille. Vi ho detto che la pagina musicale è lineare, non ha il pentagramma, e purtroppo, per quanto il Braille sia prezioso, non consente di guardare al volo dove sono le note, dove sono le legature e dove sono gli accordi, perché il tutto è disposto come se fossero lettere di una parola, di lettere di parole. Quindi il non vedente, se vuol sapere dov'è un accordo, deve scorrere con le dita lungo il suo spartito e cercare i segni di accordo. Questo praticamente scoraggia quasi tutti i bambini a studiare musica, anche perché mancano gli insegnanti preparati, e quindi gli studi musicali purtroppo stanno decadendo tra i ciechi. Poi i ciechi suonano a orecchio, ma a orecchio non ci basta, è come se uno parlasse l'italiano o qualunque altra lingua e la parlasse perché la sente parlare, ma un conto è parlare una lingua, un conto è scrivere. Quindi Contrapuntus ha prodotto intanto un formato, cioè un modo di ordinare i segni Braille che vengono resi informatizzati, quindi escono da un computer, e da questo file di computer che contiene lo spartito Braille il software, che si chiama Resonare, analizza ogni segno e dice questo è una nota, scrive accanto al segno nota oppure legatura oppure accordo oppure mano destra o mano sinistra, eccetera. Alla fine ne esce fuori una specie di file, però strutturato. È molto più semplice lavorare sulla pagina Braille, quindi memorizzare, e quindi in questo modo questa pagina Braille, che era una specie di scatola nera, è stata aperta ed è stata smontata, e ogni pezzo di questa scatola nera viene etichettato e viene ordinato come in uno scaffale uno potrebbe ordinare tutti i suoi libri della biblioteca di casa per poi ritrovarli facilmente. Senta, lei all'inizio ha detto che è un tiflologo. Ultima domanda, chi sono i tiflologi e che cosa fanno? Tiflos in greco significa cieco, e tiflologo è colui che studia e ricerca sulle problematiche che riguardano la persona che non vede. Quindi il tiflologo è lo specialista che studia, legge, approfondisce, osserva, ricerca su tutto quello che può migliorare la vita dei ciechi. Non lo fa da solo, lo fa insieme a tutti gli altri tecnici e anche gli altri operatori, da quelli dell'educazione, dagli scienziati ai tecnici, agli amministratori, e mette a sua disposizione, a loro disposizione, l'esperienza, perché naturalmente i settori sono tanti, bisogna coordinare gli sforzi. E il tiflologo può fare da anello di congiunzione tra i vari specialisti. Perfetto, dottor Quatraro, la nostra trasmissione finisce qui. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, dottor Quatraro. Grazie a voi.